Un buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici, eccoci di nuovo qui all'appuntamento settimanale con Radio Left dalle frequenze di Radio Radicale, con noi la direttrice del settimanale Donatella Coccoli. Buongiorno a tutti. Al telefono invece siamo già con Christopher Hein, direttore del Centro Italiano per i Rifugiati. Buongiorno dottor Hein. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno, l'abbiamo chiamata perché questa settimana Left si occupa anche dell'appuntamento del 20 giugno, la giornata mondiale del rifugiato. Voi come Centro Italiano sicuramente siete tra i più attivi su questo fronte e soprattutto conoscete molto bene una situazione che in Italia non è percepita forse appieno nella sua gravità, è così? Sì, effettivamente il 20 giugno per essere esatto è la giornata mondiale per i rifugiati, rispettata per quest'anno la domenica, quindi sto proprio qui andando per una iniziativa dell'Alto Commissariato dell'Uno per i Rifugiati al Palazzo Rospigliosi, dove questa mattina si fa una cerimonia, per così dire, con anche esponenti rifugiati. Ci sarà un ragazzo afghano che recentemente ha raccontato la sua storia allucinante di Odissea dall'Afghanistan via Pakistan, Iran, Turchia per arrivare poi attraverso la Grecia in Italia, e che ha recentemente pubblicato il libro Nel mare ci sono i coccodili, dove delinea così 10 anni di viaggio per arrivare finalmente al paese di destinazione. Tra le altre cose, quello dell'Afghanistan è un problema che ancora viene sentito perché il paese comunque è in guerra, così come per altri conflitti che sono presenti all'opinione pubblica. Il problema dei rifugiati si manifesta invece spesso per quei conflitti che sono dimenticati, non perché siano finiti, ma perché cala l'attenzione o per la mancata presenza delle truppe italiane, per capirci. Questo vale in Italia come vale per gli altri paesi, un discorso anche di vicinanza. Ecco, laddove cade l'attenzione, la situazione dei rifugiati diventa ancora più tragica di quello che già è, perché vengono percepiti davvero come intrusi e non come persone bisognose di aiuto. Sì, effettivamente, come dice lei, noi in questi giorni abbiamo pubblicato un libro che si chiama Rifugiati, 20 anni di storia del diritto d'asilo in Italia, e dove si parla anche per esempio degli anni 90, dell'accoglienza di decine e decine di migliaia di rifugiati dalla Bosnia, dalla Serbia e più avanti dal Kosovo, quindi da zone di conflitto vicini a noi, con un grande eco mediatico su gli avvenimenti, le atrocità commessi nei Balcani, e quindi lì sì c'era una sensibilità e anche una spontanea accoglienza, famiglie che hanno aperto le loro porte di casa, associazioni che si sono create ad hoc in tanti comuni, perché appunto era un conflitto noto, conosciuto, i motivi per cui i rifugiati sono arrivati erano alla conoscenza, agli occhi di tutti. Quando invece si parla, mettiamo, della Repubblica Democratica del Congo, quando si parla della ennesima tragedia in Somalia o in Eritrea, la situazione diventa molto più difficile perché primo non c'è la conoscenza e poi c'è sempre questo sospetto che i rifugiati arrivano camuflati come rifugiati, quando sono immigrati clandestini che vogliono solamente fare un uso strumentale del diritto d'asilo. Questa è una delle grosse difficoltà che troviamo. Dottor Hein, le volevo fare una domanda. L'Italia, secondo lei, come si colloca nel resto dell'Europa quanto ad accoglienza e quanto, diciamo, a riconoscere il diritto d'asilo? Non risposta, perché non si può dire che tutto vada male in Italia, come certamente non tutto vada bene. Se vediamo per esempio la percentuale di riconoscimento dello status di rifugiato, quindi siamo tra i primi in Europa con circa 50% di tutti i richiedenti asilo che ottengono protezione e quindi ottengono un permesso di soggiorno. D'altra parte, una volta avendo questo permesso di soggiorno per asilo, e poi cosa si fa, dove si va, dove si orienta, dove si arriva a un lavoro, a un alloggio? E quindi Italia sta malissimo in quanto ha veramente attività di appoggio all'integrazione dei rifugiati. Questo poi produce le note situazioni nelle aree metropolitane, Roma, Milano, a Genova, a Napoli, dove migliaia di rifugiati sono praticamente abbandonati a se stessi, campano in parchi pubblici o in strutture occupate. Per dire anche Rosarno, che si è tanto occupato all'inizio di quest'anno, a Rosarno gli africani cacciati via poi dalla Calabria erano al 70% rifugiati, persone con un regolare permesso di soggiorno che non avevano altra scelta che accettare questo tipo di lavoro in condizioni pressoché di schiavitù. Quindi sul versante integrazione, sul versante anche dell'arrivo, è da ricordare i respingimenti che sono stati effettuati nell'anno scorso dal mar verso la Libia, verso l'Algeria, quindi con una netta e evidente violazione degli obblighi internazionali, che respingere persone che hanno bisogno di protezione verso la Libia. Lì l'Italia, diciamo, ha dato un esempio per tutta l'Europa, veramente, io devo dire, pressoché catastrofico. Il Parlamento europeo da tempo sta cercando di far passare una proposta, una risoluzione su un programma comune di reinsediamento. Questo per riferirmi a quello che diceva lei prima, che cosa si fa poi una volta che si è ottenuto il diritto d'asilo. Sono molto pochi però i paesi che hanno adottato politiche di reinsediamento, cioè dare la possibilità di un lavoro, di una casa, di reinstallare davvero le persone in un altro territorio. Perché questa difficoltà ad accettare una politica comune in questo senso? Beh, io penso che la prima difficoltà è quella che nell'opinione pubblica si fa una grande confusione tra immigrati regolari, irregolari, rifugiati, richiedenti asilo. Quindi è proprio una mancanza anche di conoscenza, e devo dire sono grato a voi della Radio Radicale che fate questa trasmissione, perché diciamo, aiuta per spiegare anche a persone che non sono, diciamo, di lavoro, situazione come si presenta. Un secondo elemento è certamente non solo italiana, ma anche una chiusura a livello di tutta l'Unione Europea, da quando, diciamo, la parola sicurezza ha talmente preso il sopravvento e si è fatto capire che la sicurezza è in contraddizione al rispetto dei diritti elementari della persona, e quindi anche l'Italia è sotto una influenza comunitaria che dà tutta l'importanza per la chiusura delle frontiere, sorveglianza delle frontiere, la esternalizzazione in paesi fuori dell'Europa come la Libia, l'Ucraina, i Balcani, la Turchia, eccetera, dove praticamente oggi vengono difesi, per così dire, le frontiere europee, con la conseguenza che i rifugiati non possono più entrare. Bene, dottor Haim, noi la dobbiamo salutare, la ringraziamo tantissimo e seguiremo sempre con Left e Radio Left su Radio Radicale questi temi. Grazie mille. Sì, io ricordo anche il libro Rifugiati, 20 anni di storia del diritto d'asilo in Italia, pubblicato proprio in questi giorni da Donzelli, riflessione appunto a più voci su tutti questi temi dell'immigrazione, tra cui anche appunto il professor Hein. Grazie mille, grazie anche per il lavoro grazie che svolgete. A voi. Buona giornata, arrivederci. Arrivederla. E noi abbiamo salutato così il dottor Hein, direttore del Centro Italiani Rifugiati. Era questo, quello del 20 giugno, il nostro primo piano, l'attenzione appunto che diamo a degli avvenimenti della settimana, mentre invece la storia di copertina è dedicata a un'altra questione estremamente importante, di cui parliamo da diverse settimane, ma di cui continua a esserci la necessità di parlare. Ferita a morte, il titolo del settimanale, la foto risale agli anni 40, al 1946, è nata la Repubblica Italiana, era il titolo del Corriere della Sera, una donna sorridente con il giornale in mano, una Repubblica che è nata e che probabilmente adesso forse è ferita a morte. Ne abbiamo parlato all'interno della nostra storia di copertina con diversi interlocutori. Da un lato un articolo che apre lo sfoglio è di Luigi Lombardi Satriani, La fine della democrazia, un'analisi di quelli che sono i punti particolari su cui tocca soffermarsi per capire quanto stia diventando preoccupante. Poi abbiamo ancora un articolo di Donatella Coccoli, l'incubo si spezza in Europa sulla questione dei media, e ne parleremo tra poco, ma c'è anche un'intervista con Giancarlo Caselli, procuratore capo di Torino a curia di Sofia Basso, un siluro contro i cittadini viene definito il disegno di legge Alfano. Giancarlo Caselli, che tra poco avremo con noi al telefono, e che appunto in questa intervista spiega quali sono le ragioni per cui su questo disegno di legge c'è poco da modificare, andrebbe invece interamente cambiato. Buongiorno Giancarlo Caselli, al telefono con noi. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno. Nell'intervista che noi pubblichiamo questa settimana, lei appunto dice questa cosa estremamente importante: non c'è da modificare il disegno di legge sulle intercettazioni, è completamente da eliminare perché non è modificabile un impianto di questo tipo, giusto? Sì, la mia personale opinione è che ritocchi, aggiustamenti, qualche così pennellata in superficie servano davvero a poco. È l'impianto strutturale di questa riforma che suscita un mare di perplessità, perché in un colpo solo, quasi un record, si lancia un siluro contro l'informazione, un siluro contro le indagini, un siluro contro la sicurezza dei cittadini. Sono caposaldi della democrazia, in un modo o nell'altro vengono compromessi, vengono pregiudicati, vengono messi a rischio, e allora ecco, ritoccare un profilo particolare, aggiustare un pezzettino, la casa rimane così strutturata in maniera tale che, per quanto riguarda gli interessi dell'informazione, delle indagini, della sicurezza dei cittadini, caposaldi, ripeto, della democrazia, la casa non può reggere. Voi da tempo come magistrati state spiegando che porre un limite alle intercettazioni, al lavoro delle intercettazioni, non alla loro pubblicazione, stiamo parlando proprio del lavoro, è un rischio per le indagini, eppure si continua a non ascoltarvi. Può spiegare davvero che cosa significa poi all'atto pratico? Lo fa nell'intervista con cose magari ecco banali che ai cittadini non arrivano, tipo quando lei dice bisognerà portare tutti questi faldoni giorno per giorno da questo pool di giudici che dovrà decidere se autorizzare o meno. Lo strumento delle intercettazioni, che sono assolutamente decisive per la scoperta di una infinità di responsabili di reati anche gravissimi, parlo di omicidi, rapinatori, estortori, stupratori, pedofili, trafficanti di droga, sfruttatori di prostitute, corruttori, concussori, malversatori, bancarottieri, usurai e via seguitando, lo strumento delle intercettazioni, indispensabile, ripeto, deve essere agile, incisivo, rapido e fondato su norme chiare. Questa riforma sembra andare in direzione esattamente contraria. Se oggi la competenza è di un giudice singolo, il GIP, e domani, se passa la riforma, la competenza per autorizzare le intercettazioni sarà di un collegio di 3 magistrati, competenti per l'intero distretto di Corte d'Appello, quindi nel caso mio di magistrato che lavora a Torino, per tutto il Piemonte e per tutta la Valle d'Aosta. E il pubblico ministero deve, chiedendo le intercettazioni, non scrivere un'ordinanza anche articolata, motivatissima, eccetera, ma trasmettere per leggere l'intero fascicolo. Ecco una procedura complicata, più lunga, barocca, più dispendiosa, esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere. Sarà una circolazione continua, infinita, un andirivieni di furgoni da Novara a Torino e viceversa, da Cuneo a Torino, da Tortona a Torino, da Asti a Torino, da Vercelli a Torino, da Aosta a Torino, da Casale, Acqui, Verbania e via seguitando, per trasferire questi fascicoli al giudice collegiale competente per l'intero distretto, poi restituirli all'autorità inquirente e via seguitando, non si finisce più. Sono cose veramente, non dico con poca razionalità, ecco, usiamo questa espressione senza cercare tinte troppo forti. La stessa cosa vale per i termini. Fissare un termine perentorio di 60 giorni prorogabili a 75 significa non tenere conto dell'esperienza, cioè molte volte i 75 giorni bastano. Per esempio, per quanto riguarda la Procura di Torino, la durata media delle operazioni di intercettazione è 36 giorni per quelle, diciamo così, ordinarie, 56 giorni per quelle della Direzione Distrettuale Antimafia. E quindi, ma se si va oltre i 75 giorni, evidentemente, non è per capriccio, ma per necessità. Escludere la possibilità di andare oltre i 75 giorni, sempre e comunque, significa ragionare in astratto, non tener conto delle esigenze concrete, dell'esperienza. Ci sono le proroghe di 72 ore in 72 ore, per favore, lo giuro, quando mi capita di partecipare a dibattiti in giro per il Piemonte, fuori dall'orario d'ufficio naturalmente su questi temi, e senza fare nessun commento parlo dei 75 giorni e poi della prorogabilità di 72 ore e 72 ore, che ogni volta, ogni 72 ore significa fascicolo che torna nella sua integralità al giudice distrettuale, poi torna al PM attraversando tutto il Piemonte. La gente si mette a ridere, ridere, ecco. Sono cose prive di senso. Voglio dire una cosa, io faccio il magistrato e deve essere ben chiaro, che in quanto magistrato io ho l'obbligo di osservare scrupolosamente, lealmente le leggi dello Stato. Se viene approvata questa legge che depotenzia in una maniera per me difficilmente comprensibile questo strumento utilissimo, indispensabile per scoprire la verità in una infinità di casi gravissimi, che sono le intercettazioni, e io applicherò la nuova legge, lavorerò con quel poco o niente che mi rimane. Il problema non è mio, soprattutto mio, di me magistrato, il problema dei cittadini, certo. Perché in questo modo meno intercettazioni, meno delinquenti assicurati alla giustizia, meno sicurezza per i cittadini. E in un paese in cui si grida ogni giorno sicurezza, sicurezza, sicurezza, si teorizza la tolleranza zero, sempre e comunque, quando si tratterebbe di difendere il baluardo vero della sicurezza dei cittadini, e cioè le intercettazioni, invece picconate a tutto andare, in modo da se non demolire, quantomeno sbrecciare gravemente. Perché la gente non capisce? È un problema di informazione, certo, non mio. Ma io credo che la gente capirebbe di più se si facesse un esempio banale, ridicolo, ma che potrebbe essere chiarificatore. Le intercettazioni sono radiografie giudiziarie, nel senso che non si fermano alla superficie delle cose, ma vanno più in profondo. Sono come le radiografie sanitarie che consentono di vedere, certo, cosa c'è dentro. E supponiamo che qualcuno vada dall'ordine dei medici e dica: voi avete le radiografie, le TAC, le risonanze e quant'altro, beh, scordatevele, a partire da domani più niente, soltanto colpettini sulla schiena del paziente, che dovrà dire 33, e perché non più radiografia? Perché sono invasive. Beh, succedesse una cosa di questo genere, ci sarebbe una rivolta di popolo, giovani e vecchi, uomini e donne, leghisti e simpatizzanti di Vendola, Popolo della Libertà e PD, tutti radicali naturalmente, per carità, è una rivolta, perché con la sicurezza sanitaria, con la salute non si scherza. Certo. Beh, qui sta succedendo qualcosa di simile, qualcuno va dalle forze dell'ordine, che difatti sono preoccupate tante quanto i magistrati, e dalla magistratura a dire: voi avete le intercettazioni che sono radiografie giudiziarie, scordatevele, perché sono invasive. E allora accontentatevi del vecchio confidente di quartiere, ecco, della soffiata di questo o di quello. Dottor Caselli, non c'è nessuna rivoluzione, certo, che ci dovrebbe essere, perché è mettere in pericolo non la sicurezza sanitaria, ma la sicurezza sociale, la tranquillità di vita dei cittadini. Ed è grave tanto quanto incidere sulla sulla salute. Certo, dottor Caselli. Senta, questo il decreto intercettazioni, e poi vedremo insomma se slitterà dopo l'estate, vedremo se sarà modificato. Comunque l'attenzione non va assolutamente mancata, cioè ci deve essere sempre, no? Mi sembra di capire, anche se adesso col fronte Bossi Fini sembra che ci sia uno spiraglio. Però ecco, le volevo chiedere, questo è l'ultimo atto di una serie di leggi, le ricordo qualcuna, cioè vabbè, il processo breve che è in discussione ancora, il legittimo impedimento, lo scudo fiscale, cioè mi sembra che il potere legislativo, uno dei tre poteri che dovrebbe garantire la democrazia, in questo caso rispetto alla giustizia si sta comportando in maniera abbastanza pesante. Lei che sguardo, che tipo di pensiero ha su questo aspetto? Cioè il DDL Alfano è soltanto l'ultimo, diciamo, di una serie di provvedimenti che in qualche modo forse ostacolano un po' l'attuazione della giustizia e quindi del diritto alla sicurezza dei cittadini? Sono sostanzialmente d'accordo, con la precisazione che è l'ultimo, se facciamo riferimento a quanto già avvenuto. Temo che non sia l'ultimo con riferimento a ciò che ancora ci aspetta. Ecco. Voglio dire che nel nostro paese che la giustizia non funzioni, purtroppo è una verità, una vergogna sotto gli occhi di tutti. Non funziona per un'infinità di cause, alcune addebitabili anche ai magistrati che dovrebbero meglio organizzarsi, ecco. Ma sarò corporativo, però sono assolutamente convinto che le responsabilità dei magistrati, che pure ci sono, non sono le prime. Si spende troppo poco. Non ci sono oggi come oggi segretari e cancellieri, mm-hmm. E senza segretari e cancellieri la giustizia non può funzionare. Eppure sono 12 anni che non se ne recluta neppure più uno, e frattanto pensionamenti, iperpensionamenti, ci sono delle voragini nei nostri uffici giudiziari per quanto riguarda il personale amministrativo e il personale ausiliario. Le procedure sono quanto di più barocco si possa immaginare. Faccio un solo esempio per capirci subito. Sì. Se io reo confesso di un qualche reato, vengo condannato al minimo dei minimi, io vado regolarmente in appello e poi in Cassazione. Questo succede nel nostro ordinamento sempre, perché spero che succeda qualcosa. Sarà un indulto, sarà un'amnistia, sarà un condono, sarà la prescrizione. Ma così il sistema sti in casa, non funziona più. Allora, o riduciamo i gradi di giudizio, o perlomeno mettiamo dei filtri, perché non si possa sempre inesorabilmente dal primo grado andare in appello e sempre inesorabilmente dall'appello andare in Cassazione, perché sennò la macchina si implode, la macchina non si blocca. E però, ecco, a fronte di questa situazione di riforme che riguardino davvero il funzionamento della giustizia, io l'orizzonte non ne vedo. Certo. Vedo le intercettazioni, tutte le leggi che hanno preceduto, le leggi cosiddette ad personam o presunte tali, e adesso per venire all'oggi, le intercettazioni che mortificano gli spazi di intervento del pubblico ministero e quindi la possibilità di ottenere con le indagini risultati positivi nell'interesse dei cittadini, della salvaguardia della loro sicurezza. E all'orizzonte vedo la riforma del CSM, una riforma che viene definita come separazione delle carriere, una riforma dei rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria, una mini riforma del codice di procedura penale che il ministro Guardasigilli ha più volte preannunziato, che credo sia già stata formalmente rassegnata a questo o quell'altro ramo del Parlamento. E sono tutte riforme, tutte. Non abbiamo tempo forse per analizzarle ad una, ma sfido chiunque in contraddittorio a dimostrarmi il contrario. Tutte riforme che per un verso o per l'altro toccano l'indipendenza della magistratura. Non modificheranno di niente l'efficienza del sistema, la durata dei processi non si durerà neanche di un nanosecondo, niente, semmai i processi si allungano, e però il pubblico ministero in particolare, e quindi la magistratura in generale, sarà meno indipendente. Ma a chi conviene tutto questo, per favore? In un paese ancora caratterizzato da una forte presenza di crimine organizzato, da una forte corruzione, da una forte malasanità, da una forte malapolitica, da una forte malamministrazione, via seguitando, un pubblico ministero che possa ricevere, essendo meno indipendente, inevitabilmente questa sarà la conclusione, ordini dal potere esecutivo, in un modo o nell'altro, ordini, direttive, indicazioni, suggerimenti, via seguitando, e quindi fare certe cose e non farne altre, privilegiare determinate indagini, penalizzarne altre, fare gli occhi dolci a qualcuno, la faccia severa a qualcun altro, a chi serve? In un paese come il nostro, contingentemente ancora caratterizzato da una situazione come quella che ho cercato sommariamente di descrivere. Certo. Forse, come dice lei nell'intervista, serve a tutelare i vizi pubblici, ecco, e privati del potere. Torniamo alle intercettazioni. Si sacrifica, lo ripeto, si sacrifica la sicurezza dei cittadini, bene fondamentale in democrazia, perché? L'ho letto su molti giornali, mi sembra un argomento non solo suggestivo ma anche piuttosto fondato, per tutelare i vizi pubblici o privati di pochi. Attenzione, si dice c'è un problema di privacy, certo, c'è un problema di abusi, a parte il fatto che tutti quegli abusi che si dice io non li vedo, ecco, ma a questo punto però interveniamo chirurgicamente, certo, in modo da proteggere la privacy laddove deve essere protetta, in modo da evitare gli abusi laddove possono essere commessi. Ma per intervenire chirurgicamente non dobbiamo dare picconate al muro che difende la sicurezza dei cittadini, cioè le intercettazioni. Dobbiamo aggiustare un mattone, questo o l'altro, del muro. Non sbrecciarlo a picconate che lo colpiscono nella sua integralità, o se non nella sua integralità, nella sua complessità, nella sua struttura di funzionamento. A me sembrano tutte cose, sarò stupido, ecco, mi sembrano cose ovvie, evidenti, ecco, quantomeno, se non ovvie, cose sulle quali poco invece si viene informati. Sì, noi cercheremo di fare il possibile anche affrontando in futuro tutto il discorso della cosiddetta riforma della giustizia. Come... Grazie a voi per l'opportunità. Grazie mille, dottor Caselli. Alcune mie, naturalmente, certo, sottolineo, mie idee. Grazie. Grazie a lei, anche a lei, buon lavoro. Arrivederla Giancarlo Caselli, procuratore capo di Torino. L'intervista la trovate sul numero edicola questa settimana di Left, a pagina 16, a cura di Sofia Basso. Ma dicevamo all'inizio, sulla morte della democrazia, non è soltanto questo l'argomento che abbiamo affrontato, abbiamo parlato anche di quello che è un disegno in qualche modo preordinato su quello che riguarda che cosa fare poi alla fine dell'informazione, che cosa fare dei giornali, che non passa soltanto attraverso quello che abbiamo visto sul disegno di legge sulle intercettazioni, ma passa anche, Donatella, tu lo scrivevi questa settimana, per altre cose, come certo, per esempio le norme del Dipartimento per l'Editoria. Certo, allora parlando appunto anche adesso con il giudice Caselli, abbiamo visto che in assenza, diciamo, di una riforma ci sono delle leggi, dei tentativi, diciamo, di bloccare anche tutto un settore, e questo avviene anche nell'informazione. Infatti, al di là dell'approvazione o meno del DDL intercettazioni, che palesemente è anticostituzionale per quanto riguarda la libertà di stampa e quindi viola l'articolo 21 della Costituzione, c'è anche un altro aspetto che non è molto conosciuto, che non si legge nei grandi media, non tantomeno in TV, è il discorso della mancanza di una riforma dell'editoria, che va a penalizzare le piccole testate, le testate in cooperativa, le testate non profit, le testate di partito. Per questo motivo abbiamo al telefono il presidente di Mediacoop, il dottor Salani. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dottor Salani. E io vorrei con lei, vorrei che lei ai gli ascoltatori di Radio Radicale esponesse un po' il problema del settore in questo momento storico, al di là, diciamo, del DDL intercettazioni, che cosa sta accadendo e che cosa rischiano le centinaia di testate giornalistiche, che sono non soltanto giornali, periodici, settimanali, mensili, ma anche radio e televisioni locali. Io direi, se siete d'accordo, partiamo dalle cose che sta succedendo in questo momento al Senato. Sì, al Senato sì, ci sono, da quello che mi risulta, una mezza dozzina di emendamenti, sì, di varia natura, variamente stesi, che in questo momento sono, come dire, allo studio, e questa mattina si chiudono i termini per la presentazione. Tra questi ci sono sicuramente degli emendamenti che recuperano larga parte delle cose che noi, non più tardi di 3 giorni fa, nell'assemblea del 15, abbiamo proposto. Ed è stata un'assemblea molto molto complessa quella del 15, perché è stata un'assemblea in cui noi abbiamo chiamato, come dire, a raccolta tutti quelli che in qualche modo in questi anni ci hanno dato una mano in questo settore, e perché questo problema non è di oggi. Ecco, mi perdoni, dottor Salani, qual è il problema? Il problema è, lo riassumo in breve, il fatto che il diritto soggettivo è stato tolto, se lo vuole spiegare in parole semplici per gli ascoltatori, per capire appunto... Molto semplice, proverò a raccontarlo. Questo settore, che è quello dell'editoria, soprattutto cooperativa e minore, ha goduto in questi anni di alcuni aiuti. Sono aiuti che derivano da molte ragioni, in particolare derivano dal fatto che queste cooperative nascono in virtù di una legge che cerca di far sì che ci siano degli editori puri. Cosa intendiamo per editori? Editori, cioè, che non hanno interessi diversi se non quello di fornire dell'informazione. Mm-hmm. Ora, questi modelli di cooperativa che sono state previste dalla legge non consentono a questi editori di potersi capitalizzare, di essere finanziate, operano su un mercato con dei limiti molto significativi nel campo della pubblicità, e dunque sono dei soggetti che in qualche maniera, come dire, sono più deboli, più gracili. A loro però compete un lavoro importante, perché come abbiamo detto, se sono degli editori non condizionabili, sono sicuramente degli editori importanti per la democrazia. Perché? Perché appunto non rappresentano né interessi della sanità, né interessi, certo, di altri settori, delle banche. Rappresentano semplicemente che cosa? Gruppi di giornalisti che si mettono a fare questo lavoro in piena autonomia e quindi sono in grado di fornire una, come dire, una informazione laica, critica, di qualità. Questi contributi arrivano un anno dopo che sono finite, l'anno successivo all'anno di bilancio, e dunque, essendo delle imprese molto piccole, hanno difficoltà di ottenere credito in attesa che arrivino i finanziamenti. Questo ha fatto sì che nel tempo sia nata una sorta di, appunto, diritto soggettivo, cioè si sa all'inizio dell'anno che queste imprese avranno diritto ad un rimborso delle loro spese, e questa certezza viene scontata in banca. La banca anticipa i soldi e queste cooperative possono lavorare. Se non c'è l'anticipo, naturalmente queste cooperative, per le ragioni che ho appena detto, hanno difficoltà, certo, a sopravvivere. Quello che è successo è che questo diritto soggettivo è stato rimosso. Naturalmente non basta, perché, come dire, quando piove, piove. Contemporaneamente si è anche intervenuti su un altro fronte, che non so se avete avuto modo già di discuterne, che è quello dei costi delle tariffe di spedizione postale, che anche qui, ma non per le ragioni che ho appena detto, per una ragione che non viene raccontata da nessuno, anche in questo caso lo Stato interviene riducendo il costo della spedizione. Qualcuno dice che lo fa perché finanzia Poste, ma non mi interessa. La cosa che è più interessante sotto questo profilo, e qui la chiudo per gli abbonamenti, è che se ci pensiamo bene, tutti parlano che bisogna favorire la lettura, tutti parlano che bisogna favorire il numero dei lettori. Gli abbonamenti, come è noto, sono uno degli strumenti che consentono di accedere alla lettura a costi più contenuti. Quindi era uno dei pochi strumenti messi in campo per allargare la lettura. È stato tagliato. Questo è stato tagliato poi all'inizio dell'anno, quindi quando gli abbonamenti erano già stati definiti, incassati, quindi a questo punto gli editori sono in una situazione difficilissima. Si trovano in una situazione difficilissima tutti quelli più piccoli, come facilmente immaginabili, certo, ma anche quelli un po' più grandi. Bene, avendo raccontato lo stato dell'arte, la situazione è la seguente: senza il diritto soggettivo le cooperative di giornalisti non sono in grado di andare avanti, per di più le risorse sono state in questi anni praticamente dimezzate, più che dimezzate, a questo punto ce n'è sì e no un terzo di quelle che servirebbero, quindi quando anche si arrivasse, come si suol dire, a dividere questa piccola torta fra queste cooperative, probabilmente non solo ci sarebbero pochi soldi, ma ci sarebbero anche pochissimi soggetti a chiederlo, perché nel frattempo hanno chiuso. Questo è lo stato dell'arte. E quindi adesso cosa sta succedendo? Quindi noi sostanzialmente il 15 cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto al governo di operare su due fronti. Il primo, che è quello dal quale è partita questa telefonata, cioè di una riforma generale. Ma in attesa di una riforma, che non arriva da ormai credo un decennio, in attesa della riforma intanto si faccia un'operazione che consenta a queste testate di arrivare alla riforma, cioè di poter partecipare con le loro esperienze, con la loro gioventù, con la loro qualità dell'informazione, con la loro indipendenza, di poter partecipare a questa riforma. Quindi consentire a questa novantina di testate di poter arrivare, cioè girare il 2010 e il 2011, presupponendo che ci vogliano un paio d'anni per fare una riforma dignitosa. E in tal senso noi vogliamo credere, e mi consenta questa differenziazione, vogliamo credere che sia un problema di soldi. E dunque in quell'occasione abbiamo anche proposto dove andare a cercare le risorse per poter consentire la riattivazione del diritto soggettivo senza ulteriori aggravi per lo Stato. Questo è lo stato dell'arte, queste proposte che sono molto semplici, ci sono 70 milioni che qualcuno si è inguattato, non si sa bene dove sono stati messi, c'è un problema che su questo capitolo di spesa paghiamo la RAI, ci sono molte le proposte che non credo poi tutto sommato siano particolarmente importanti per i nostri ascoltatori. La cosa importante è che sono state fatte le proposte che non costano. Tutti quelli che erano presenti hanno detto che erano delle proposte sensate. Mi risulta che in questo momento appunto si stanno facendo degli emendamenti che cercano di accogliere queste proposte e altre che naturalmente altri soggetti sono in grado di portare, proprio per reintegrare in tempi rapidissimi il diritto soggettivo. Bene, dottor Salani, con l'augurio che l'emendamento vada in porto e magari la notizia la potremo trovare sul prossimo numero di Left la prossima settimana oppure nei prossimi numeri ancora. Mi auguro e festeggerei con Left, naturalmente. Benissimo, io la saluto. Grazie ancora della vostra ospitalità. Grazie a lei. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie anche a Salani, noi andiamo a conclusione di questa trasmissione ricordando anche quelli che sono gli altri argomenti che trovate sul settimanale in edicola a partire dalla giornata di venerdì in alcune parti d'Italia e di oggi, di sabato, in altre. Intanto c'è l'intervista con Drago Kos, che è il presidente del gruppo contro la corruzione del Consiglio d'Europa, il cosiddetto Greco, che racconta quali sono le 22 raccomandazioni che il suo gruppo ha fatto all'Italia proprio sul fenomeno della corruzione, che è un altro degli elementi che determinano se un paese poi è democratico o meno. Un'analisi anche per quello che riguarda la situazione che si sta presentando adesso a Pomigliano, qui comando io, il titolo dell'articolo di Emanuele Bonaccorsi, quando il padronato vuole minare i diritti costituzionali dei lavoratori, come appunto il diritto allo sciopero. Per quello che riguarda invece la giornata dei rifugiati, ricordiamo anche l'intervista a Laura Boldrini, vittime non minacce, di Lina Galano, che trovate appunto nello sfoglio dedicato alla giornata dei migranti. Sì, niente Paola, volevo solo concludere con un pensiero, cioè da queste due interviste, dal dottor Caselli e dal dottor Salani, abbiamo visto sia nel campo della giustizia che nel campo dell'informazione un problema fondamentale, e cioè che questo governo di centrodestra, invece di porre mano ad una riforma che viene auspicata anche dai diretti interessati, dai magistrati, dagli editori, dai giornalisti, che cosa fa? Emana dei provvedimenti che in qualche modo ostacolano il funzionamento stesso sia della giustizia che dell'informazione. Ecco, questa è una conclusione che mi viene da fare dopo queste due interviste e che pongo all'attenzione degli ascoltatori di Radio Left, Radio Radicale. E noi con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre sulle frequenze appunto di Radio Radicale alle 10.30 con il settimanale Left Avvenimenti. Una buona giornata a tutti e a tutte. Buongiorno.